c'è più amore. No, no, no, non mi mentire. No, no, no, non credo più. Vuoi farmi credere d'amar soltanto me con tutta l'anima, ma è solo un capriccio. No, no, no, non è più amore. No, no, no, non mi mentire. No, no, no, non credo più. Tu sei dolcissima se t'abbandoni a me per farmi illudere coi baci più ardenti. No, no, no, non è più amore. No, no, no, non mi mentire. No, no, no, non credo più. Vorrei fuggir da te e non amarti più, ma tu mi avvicini ancora per farmi soffrire. No, no, no, non è più amore. No, no, no, no, no, non mi mentire. No, no, no, non credo più. No, no, no, non credo più.